rassegna stampa Europa. Ancora buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli. Passiamo appunto alla rassegna europea, però prima volevo ringraziare un ascoltatore che mi segnala: Botero non è spagnolo, come ho detto sbagliando, è colombiano. Fernando Botero, appunto il pittore, scultore, artista di cui parlavamo prima. E un altro ascoltatore mi contesta un po' quello che ho detto sull'unità. D'altro canto questa è l'impressione che ho avuto vedendo la prima pagina dell'Unità, con questi titoli così diversi, che non è per carità una colpa necessaria, però così diversi, così staccati dalla cronaca rispetto agli altri quotidiani. Ma passiamo appunto alle questioni europee, e oggi parto dal Foglio, che al sabato è più spesso del solito, ha molti approfondimenti. Anche questa settimana tra l'altro ce ne sono molti di interessanti, però vi segnalo in particolare questo articolo che si chiama Il partito di Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, e sapete, lo chiamano il falco, e sicuramente ha posizioni molto dure, continua a essere nonostante quello che dice il Fondo Monetario Internazionale, continua a essere il più strenuo oppositore a una ristrutturazione del debito, perché come sapete adesso siamo al punto che è stato approvato dal Parlamento greco il piano di riforme, però c'è anche chi dice che a monte in realtà c'è il fatto che il debito non potrà mai essere ripagato e deve essere ristrutturato, cioè il che vuol dire tagliato. E allora scrive il Foglio: con 439 sì, 119 no e 40 astenuti, il Bundestag ha dato il via libera ieri all'avvio dei negoziati con il governo di Atene. Nel corso della sessione straordinaria, la cancelliera Angela Merkel e il suo braccio destro, il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, si sono difesi dalle pesanti critiche delle opposizioni. Sotto accusa c'erano la gestione e l'esito delle trattative europee condotte nella notte tra il 12 e il 13 luglio, prima in sede di Eurogruppo e poi di summit tra i 18 capi di Stato e di governo europei. Per l'opposizione, la durezza del governo federale nei confronti di Atene avrebbe contribuito a rafforzare l'immagine negativa della Germania all'estero. A differenza di quanto accaduto a Bruxelles a inizio settimana, la Merkel e Schäuble sono apparsi molto coesi, sia nei modi sia nei contenuti. E quindi forse appunto questo cambio un po' di atteggiamento di Schäuble e della Merkel, perché cominciavano a sentire pesantemente queste reazioni della stampa europea, ma che poi magari riflettono l'opinione pubblica europea, appunto di questo sentimento antitedesco. Vi segnalo, chi segue questa rassegna sa che ho fatto spesso riferimento al sito presseurope.eu. Da qualche settimana non si riesce più a connettersi, temo che ci sia di nuovo un problema di fondi. Era un sito che era finanziato con piccoli fondi dell'Unione Europea, temo che, come era già successo l'anno scorso, siano stati chiusi i rubinetti, e quindi la sua opera, secondo me meritoria, di fare monitoraggio della stampa europea in questo momento è un po' oscurata, ma per fortuna naturalmente ci sono tante altre fonti, a cominciare da Internazionale, il settimanale diretto da Giovanni De Mauro, che è in edicola ogni venerdì, e quello che è uscito ieri e che sarà in edicola naturalmente per tutta la settimana ha una copertina dove la scritta Internazionale si legge chiaramentissimamente, però è come un po' rimaneggiata a computer per farla sembrare scritta con l'alfabeto greco, e il titolo è La lunga notte dell'Europa. C'è una foto molto suggestiva da cui c'è una nebbia da cui emergono due bandiere che sventolano ma con poca convinzione. Da una parte c'è quella greca e dall'altra c'è quella dell'Europa. E in particolare Internazionale ha tradotto due articoli, uno di Le Monde, La notte più lunga, e si intitola questo articolo: Le interminabili trattative, la zona euro spaccata tra falchi e colombe, un accordo che può saltare da un momento all'altro, la cronaca del fine settimana che ha fatto tremare l'Europa. Come sappiamo, per ora questo accordo tiene i parlamenti, perché naturalmente questo articolo è stato pubblicato prima che poi i parlamenti, in testa quello greco ma poi anche gli altri, come abbiamo detto, che hanno l'obbligo come il Bundestag di ratificarlo, per ora hanno appunto detto tutti sì, però abbiamo visto anche, come abbiamo letto sul Foglio, anche con importanti spaccature al loro interno. Vi leggo una piccola parte di questo articolo. È una nuova Versailles per la Grecia, ha chiesto una giornalista tedesca ad Angela Merkel, riferendosi al trattato con cui i vincitori della Prima Guerra Mondiale imposero alla Germania riparazioni pesantissime, e lei ha risposto: non mi interessano i paragoni storici, non siamo in un'Europa tedesca, abbiamo combattuto all'estero, adesso dobbiamo lottare in in Grecia contro i diritti acquisiti. Ha invece poi, che tra l'altro è una cosa che ha detto anche Tsipras, che sta cercando faticosamente di introdurre tutte queste riforme, alcune delle quali appunto intaccano molti diritti acquisiti della Grecia. Il New Statesman, che è un settimanale di centrodestra molto conservatore del Regno Unito, di cui l'Internazionale traduce questo articolo, parla invece della versione di Yanis Varoufakis. L'Eurogruppo, lo avete sentito anche nell'intervento che abbiamo visto pubblicato da Repubblica, che in realtà è un intervento di Varoufakis sulla Zeit, il settimanale tedesco. L'Eurogruppo, è la tesi di Varoufakis, è controllato dalla Germania, la Grecia è stata incastrata, spiega l'ex ministro delle finanze greche nella prima intervista dopo le dimissioni. E allora vi leggo anche qui una piccola parte di quello che Varoufakis dice a New Statesman. Poco prima dell'accordo raggiunto il 13 luglio, i paesi dell'Eurogruppo si sono divisi tra quelli che sembravano volere la Grexit, l'uscita della Grecia dall'euro, e quelli che cercavano un accordo. Secondo Varoufakis, però, su una cosa sono sempre stati tutti uniti: il futuro, il rifiuto di rinegoziare. C'erano persone che a porte chiuse mostravano simpatia a livello personale, tra queste Christine Lagarde, direttrice del Fondo Monetario Internazionale. All'interno dell'Eurogruppo, però, dice Varoufakis, si limitavano a dire qualche parola gentile per nascondersi dietro una versione ufficiale. Persone molto potenti ti guardavano negli occhi e dicevano: quello che dici è giusto, ma ti schiacceremo lo stesso. E poi invece un articolo che è stato citato anche dai giornali italiani questa settimana, di Wolfgang Münchau, che è un giornalista che scrive su Financial Times ma è tedesco, e si intitola "L'Eurozona è stata demolita. Il nuovo salvataggio della Grecia ha trasformato l'euro in un progetto che tutela solo gli interessi della Germania", quindi dà ragione appunto alle tesi più antitedesche, e lui da tedesco, e questo ha fatto una certa impressione a chi lo ha letto. Sulla questione dell'Ungheria cambiamo un pochino argomento. Sapete che l'Ungheria ha deciso di costruire questo muro per proteggersi, per una prima protezione dall'arrivo degli immigrati, e il sito ungherese Kettos Merce scrive appunto che il 13 luglio è cominciata proprio al confine con la Serbia la costruzione di questa recinzione, di fatto un muro che dovrà impedire l'ingresso degli immigrati irregolari nel paese. Vi segnalo da eunews.it, questo altro sito che ho trovato sempre di notizie sull'Europa, un articolo che si focalizza su quello che viene definito uno scontro Washington-Bruxelles, perché come vi dicevo il Fondo Monetario Internazionale insiste per una ristrutturazione del debito come condizio sine qua non per pensare a una vera soluzione della crisi greca, e quindi il Fondo Monetario Internazionale, come sapete, ha sede a Washington, e quindi questo scontro. Il debito pubblico è diventato sempre più insostenibile, il debito pubblico greco pensate che è sulla soglia del 200%, quindi molto più alto di quello italiano di cui parliamo sempre. Vi segnalo dai quotidiani inglesi invece, molti quotidiani britannici, in questi giorni in cui si è tornato a parlare di Grexit, per ora sappiamo scongiurata, c'è poi la Brexit di cui abbiamo parlato tanto nelle settimane scorse, che è non l'uscita dall'euro, perché la Gran Bretagna non è nella zona euro, ha la sua sterlina, ma l'uscita della Gran Bretagna addirittura dall'Unione Europea. Il referendum, come abbiamo detto tante volte, è previsto per il 2016, e questo vento di referendum, scrivono i quotidiani britannici, fa un po' tremare l'Europa. Dopo quello greco che ha messo a dura prova Bruxelles, gli anti-europeisti del vecchio continente hanno affilato le armi, pronti a cogliere l'occasione per sfilarsi dalla odiata tecnocrazia. Era purtroppo l'ultima notizia che riesco a darvi. Vi auguro ancora un buon sabato e ci sentiamo domani per la rassegna stampa italiana. Rassegna stampa Europa. Collaborazione con Euronet Plus.